2009-2013. Odissea nella rete. Festeggia con noi la terza stagione Fuori Onda Radio. Venerdì 10 maggio dalle ore 19, programmazione congiunta e apericena sociale. A seguire Lupino e Ned Monkey Music Selection. Passa alla più occupata o ascoltaci in streaming. Fuori Onda Radio, una radio epica. Una radio epica.